TCHSAM Server Appliance, sistema integrato per la gestione di esami, test, questionari e quiz. Sommario. Introduzione, caratteristiche principali, struttura, interfaccia utente, funzionalità principali. TCHSAM. TCHSAM è una soluzione tecnologica, Computer Based Assessment, che semplifica l'intero processo di valutazione delle scuole, università, centri di formazione e selezione, aziende ed enti, consentendo agli insegnanti o esaminatori di creare, distribuire e gestire questionari, quiz, test ed esami. TCHSAM è distribuito tramite un server, TCHSAM Server Appliance, che incorpora l'hardware ed il software in un unico dispositivo facile da installare e da usare. Una volta collegato alla vostra rete di calcolatori, TCHSAM si utilizza come un normale sito internet attraverso un comune web browser come Mozilla Firefox o Internet Explorer. Rispetto ai tradizionali test cartacei, pen and paper testing, TCHSAM semplifica l'intero processo di valutazione riducendo i costi e migliorando la qualità e l'affidabilità degli esami. Il progetto TCHSAM. TCHSAM è un progetto italiano avviato nel 2004, tradotto in 23 lingue ed impiegato in tutto il mondo da importanti università, scuole, enti pubblici, aziende, insegnanti indipendenti e centri di ricerca. TCHSAM è attualmente il software libero Computer Based Assessment più utilizzato al mondo, con più di 70.000 download. Esami. Con il termine esame si intende una prova, variamente costituita e condotta, mediante la quale viene accertata la preparazione conseguita dagli studenti nelle scuole dei diversi tipi e gradi, o privatamente, l'idoneità degli aspiranti a ricoprire ruoli pubblici o privati, o ad esercitare determinate professioni, l'attitudine a svolgere determinate attività. Gli esami costituiscono un aspetto fondamentale dei processi di insegnamento ed apprendimento, sia nei corsi tradizionali che negli ambienti di learning. Forniscono infatti agli insegnanti e ad agli studenti le informazioni necessarie per adattare e migliorare le loro attività. L'utilizzo frequente dei sistemi di valutazione può favorire negli esaminandi lo sviluppo ed il rafforzamento delle capacità metacognitive, ma può anche comportare sforzi e costi eccessivi. Esami con carta e penna, PPT. Gli esami tradizionali con carta e penna comportano un lungo processo che va ripetuto per ogni test ed è particolarmente soggetto ad errori umani. Preparazione del test, riproduzione del test su carta, distribuzione del test, esecuzione del test, ritiro o consegna del test, valutazione manuale delle risposte, comunicazione dei risultati, archiviazione dei test. Esami elettronici. Con il termine esame elettronico si intende una prova d'esame condotta attraverso l'ausilio di un elaboratore elettronico, sia esso un personal computer, PC, o un dispositivo palmare, PDA. Nella letteratura internazionale, gli esami elettronici sono noti con i nomi di Computer Based Assessment, CBA, Computer Based Testing, CBT, o EXAM. Gli esami elettronici sono stati inizialmente creati più di 40 anni fa per gli esami di certificazione nell'industria IT e si sono poi progressivamente evoluti fino a soddisfare le più complesse esigenze di valutazione. Attualmente vengono eseguiti in tutto il mondo più di 1 miliardo di esami elettronici all'anno. CBA versus PPT. Numerosi studi comparativi tra gli esami tradizionali eseguiti con carta e penna, PPT, Pen and Paper Testing, e gli esami elettronici, CBA, Computer Based Assessment, confermati da un'esaustiva revisione della letteratura scientifica, evidenziano quanto segue. I risultati dei test sono sostanzialmente indipendenti dal sistema utilizzato. I sistemi CBA sono largamente preferiti dagli esaminandi. L'esperienza nell'uso dei computer da parte degli esaminandi non influenza o influenza in maniera trascurabile i risultati dei test. l'utilizzo di sistemi CBA può influenzare positivamente l'intero processo di apprendimento. I sistemi CBA possono supportare l'intero ciclo di vita del processo di valutazione: generazione, esecuzione, valutazione, presentazione, archiviazione. I vantaggi generali dei sistemi CBA rispetto ai PPT includono: aumento della distribuzione dei test, efficienza nell'amministrazione e nella valutazione, riduzione dei costi, aumento della sicurezza dovuto alla trasmissione elettronica ed alla criptazione, consistenza ed affidabilità, processo di revisione dei test più rapido e maggiormente controllato, valutazioni più rapide grazie ai punteggi immediati, imparzialità dei test e dei voti, meno errori di valutazione, meno errori di comprensione da parte degli esaminandi, disponibilità universale dei test grazie al supporto alla traduzione e localizzazione, nuovi ed avanzati tipi di domande, aumento della soddisfazione degli esaminandi, passo evolutivo verso nuove metodologie di valutazione. Caratteristiche principali: flessibilità e configurabilità, software libero ed open source, architettura web-based, internazionalizzazione, accessibilità ed usabilità, risultati e statistiche, importazione ed esportazione dei dati, contenuti multimediali, test unici, sicurezza, gestione del server. Flessibilità e configurabilità. La soluzione TCXAM Server Appliance è stata progettata per offrire un'elevata adattabilità ai possibili scenari di utilizzo. Numerosi parametri di configurazione consentono di modellare TCXAM in base alle proprie esigenze. Le caratteristiche fisiche del server vengono scelte a seconda delle necessità del cliente, in modo tale da garantire un elevato grado di affidabilità e sicurezza. Su richiesta è possibile estendere il sistema in modo da includere nuove funzionalità. Software libero ed open source, FOSS. Il software TCXAM è anche distribuito secondo i termini della licenza GNU AGPL versione 3, affero General Public License della Free Software Foundation. Il FOSS promuove l'affidabilità e la qualità del software, supportando revisioni indipendenti e favorendo una rapida evoluzione del codice. I vantaggi generali derivanti dall'adozione del modello open source sono: apertura, stabilità, adattabilità, qualità, innovazione e sicurezza. Architettura web-based. TCXAM è basato su tecnologie web e sviluppato con tecnologia LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Per installare TCXAM è sufficiente collegare un cavo allo switch della vostra rete di calcolatori nella sala computer. Tutti i computer collegati in rete possono utilizzare TCXAM senza installare alcun software aggiuntivo e indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. TCXAM si utilizza come un normale sito internet attraverso un comune web browser, ad esempio Mozilla Firefox o Internet Explorer. Internazionalizzazione. TCXAM è indipendente dalla lingua parlata attraverso l'adozione degli standard UTF-8 Unicode e TMX Translation Memory Exchange. TCXAM supporta le lingue destra-sinistra come l'arabo e l'ebraico ed include traduzioni in 23 diverse lingue. È possibile cambiare lingua in ogni momento tramite l'apposito selettore posto in fondo alle pagine. Accessibilità ed usabilità. È fondamentale che gli strumenti CBA siano accessibili, così da poter essere equamente utilizzati dalle persone disabili. TCXAM genera interfacce web conformi allo standard XHTML 1.0 Strict, alle linee guida sull'accessibilità W3C e alle indicazioni sull'usabilità. TCXAM è utilizzato con successo anche da persone non vedenti. Risultati e statistiche. TCXAM genera diverse maschere riepilogative sui risultati dei test, dotate di vari filtri di selezione e numerosi indici statistici. e i risultati e le statistiche possono essere esportati in vari formati per una successiva rielaborazione o per l'archiviazione elettronica. L'archiviazione elettronica offre evidenti vantaggi che includono un notevole risparmio di carta e spazio. Gli esaminandi possono essere immediatamente informati sul loro risultato al termine del test. I risultati dei singoli esaminandi possono essere automaticamente inviati per email. Importazione ed esportazione dei dati. TeachExam utilizza protocolli standard, open standard, per l'archiviazione e l'interscambio dei dati CSV, XML, PDF. Il database è completamente documentato, così da poter essere facilmente esteso o utilizzato da applicazioni esterne. È possibile aggiungere filtri personalizzati per l'importazione di dati da altri sistemi. Supporta diversi protocolli per l'autenticazione remota e del single sign-on, LDAP, Radius, CAS. Contenuti multimediali. Oltre al testo, le domande di TeachExam possono contenere immagini, suoni, video, animazioni, grafici e formule matematiche. Supporta il linguaggio LaTeX. In generale, tutto ciò che può essere rappresentato su un browser web tramite un apposito plugin può essere utilizzato su TeachExam. Test unici. TeachExam supporta un numero illimitato di moduli o materie d'esame. Ogni modulo può contenere un numero illimitato di argomenti. Ogni argomento può contenere un numero illimitato di domande ed ogni domanda può contenere un numero illimitato di risposte alternative. TeachExam può generare test unici per ogni esaminando attraverso la selezione e l'ordinamento casuale delle domande e delle risposte alternative, nel rispetto dei vincoli imposti dal test. Questa caratteristica elimina o riduce drasticamente il rischio di copiature tra esaminandi. Sicurezza. TeachExam utilizza la criptazione SSL per garantire una comunicazione sicura anche attraverso canali non sicuri come Internet. L'area pubblica e quella di amministrazione di TeachExam sono fisicamente separate nel file system. TeachExam è dotato di vari sistemi di autenticazione che possono discriminare l'accesso alle varie sezioni in base all'account user password, il livello, il gruppo di appartenenza e l'indirizzo IP del computer dal quale ci si collega. Il tempo di svolgimento del test è mantenuto dal server. Al termine del tempo disponibile, il test viene automaticamente chiuso. L'attività degli esaminandi viene registrata dal server, incluse le informazioni statistiche, ad esempio il tempo di reazione, e quelle di sicurezza, ad esempio l'indirizzo IP. Gestione del server. TeachExam Server Appliance è dotato di appositi strumenti software con i quali è possibile monitorare lo stato del server, impostare diversi parametri relativi alle connessioni di rete, gestire gli aspetti amministrativi del sistema, come i log di sistema, la fase di avvio, gli utenti ed i relativi permessi, configurare l'hardware in uso e gestire la configurazione delle diverse applicazioni. La configurazione predefinita dei server TeachExam prevede l'utilizzo di due dischi rigidi in configurazione RAID 1 Mirroring, così da evitare la perdita dei dati per l'eventuale rottura di uno dei dischi. Il server esegue automaticamente l'archiviazione delle copie di backup del database, così da poter ripristinare il sistema ad ogni evenienza. Struttura. Interfaccia utente. L'interfaccia utente di TeachExam è costituita da pagine web accessibili tramite un comune browser web come Mozilla Firefox o Internet Explorer. Gli utenti possono applicare le loro preferenze al browser web per adattare l'interfaccia utente di TeachExam alle loro esigenze, ad esempio modificando la dimensione della finestra o dei caratteri. Interfaccia con CSS. L'aspetto grafico dell'interfaccia utente è gestito tramite fogli di stile CSS, Cascading Style Sheets, che consentono la separazione tra i contenuti e la loro rappresentazione grafica. Interfaccia senza CSS. L'interfaccia utente funziona in maniera indipendente dalla presentazione grafica della pagina e può essere letta dagli screen reader utilizzati dagli utenti non vedenti. Interfaccia pubblica. Interfaccia di amministrazione. Funzionalità principali. Utenti, amministratori ed esaminandi. Gestione utenti e gruppi. Esportazione ed importazione degli account. Selezione degli utenti registrati e quelli collegati. Risultati e statistiche per singolo utente. Archivi e domande. Gestione moduli, argomenti, domande e risposte alternative. Selezione, esportazione ed importazione. Test. Gestione test, esame. Gestione valutazione domande e risposta aperta, testuale. Risultati e statistiche per test e per singolo utente in tempo reale. Sistema di interazione in tempo reale per eliminare, bloccare, sbloccare o estendere temporalmente un test in esecuzione per ogni singolo utente. Esportazione dei risultati in molteplici formati, anche personalizzati. Invio dei risultati via email. Statistiche sulle domande utilizzate nel test. Tipi di domande. Teach Exam supporta 4 tipi base di domande: MCSA, Multiple Choice, Single Answer, domande a scelta multipla e risposta singola. MCMA, Multiple Choice, Multiple Answers, domande a scelta multipla e risposte multiple. Order, domande in cui occorre ordinare le risposte alternative. Text, domande a risposta aperta o domande a risposta breve. Le risposte vengono confrontate con una serie di possibili risposte corrette. Opzioni, domande e risposte. Le domande e le risposte alternative possono contenere testo, immagini, suoni, video, animazioni, grafici, formule matematiche ed altri tipi di contenuti. Per ogni domanda si possono specificare una spiegazione, il tipo MCSA, MCMA, text, order, la difficoltà, un numero intero da 0 a 10, l'ordine di apparizione, posizione, il tempo massimo di visualizzazione, se devo occupare l'intero schermo, la disposizione delle risposte alternative, verticale o orizzontale, l'avanzamento automatico alla domanda successiva. Per ogni risposta alternativa si possono specificare una spiegazione, l'ordine di apparizione o la posizione corretta, il tasto di selezione della tastiera. Opzioni test. Un test può contenere un raggruppamento arbitrario di moduli o argomenti. Per ognuno di essi è possibile specificare il numero di domande, il tipo, la difficoltà ed il numero di risposte alternative. Per ogni test si possono specificare il nome ed una descrizione, la data ora di inizio e di fine attivazione e la durata massima del test, i gruppi di utenti e gli indirizzi IP abilitati, i punti di base per le risposte corrette, sbagliate ed omesse, i punti necessari per superare l'esame, la casualità di selezione ed ordinamento delle domande e delle risposte, la visualizzazione della risposta predefinita, nessuna risposta, la visualizzazione del menu di selezione delle domande, la visualizzazione del campo per lasciare un commento al test, la visualizzazione del punteggio ottenuto da parte degli esaminandi, la visualizzazione dei risultati dettagliati da parte degli esaminandi, la ripetibilità del test. Riferimenti: www.tcexam.org.